in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che come praticamente tutti i quotidiani, anche se con tagli diversi, dà molto spazio alla fine del G7 di Taormina, che è stato, comunque la si veda, un mezzo fallimento, perché Donald Trump non ha fatto neanche mezzo passo indietro sulle sue posizioni sul clima. E c'è stato però qualche apertura sulla questione del protezionismo. Ricordiamo peraltro che, benché in campagna elettorale e nei primi mesi della sua presidenza Donald Trump abbia detto che voleva cambiare le politiche commerciali internazionali degli Stati Uniti, e sicuramente per esempio ha interrotto alcuni negoziati, ne ha fatti fallire altri, però finora di misure vere e proprie non ce ne sono. E da qui il Sole 24 Ore: G7, tregua sul protezionismo. Vi segnalo anche dalla prima pagina del Sole 24 Ore il richiamo a un'intervista a Graziano Del Rio, ministro delle infrastrutture, che torna sulla legge di bilancio e torna sulle misure che potrebbero finalmente aiutare la disoccupazione giovanile, cioè aiutare a diminuirla naturalmente. Quindi sì al taglio del cuneo per i giovani. La consueta lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, la rubrica della domenica che poi trovate a pagina 14, in cui Vittorio Carlini analizza un singolo titolo quotato per dare consigli a chi ce l'ha in portafoglio o a chi magari ci sta pensando, è Mer Tecnimont, la scommessa nel sud-est asiatico e negli Stati Uniti. E poi vi segnalo l'iniziativa che ormai siamo arrivati alla settima settimana, la nuova domenica del Sole 24 Ore, con questi due articoli. Uno si chiama, come possiamo dire, due appuntamenti più che due articoli. Uno è A tavola con, che una domenica sì e una domenica no, racconta l'incontro di Paolo Brico, del nostro collega Paolo Brico, con un intellettuale, un personaggio, un economista, e si chiama Tavola con perché, come emerge poi dal racconto, la chiacchierata avviene in un ristorante, in un caffè. Invece l'altra parte è Il viaggio in Europa di Carlo Ossola, e questa puntata è dedicata a Odessa. La prima pagina del Corriere della Sera, vi dicevo, il titolo, praticamente il primo titolo sotto la testata è dedicato al G7 al G7 un mini accordo sul commercio, divisi sul clima, Trump prende tempo. Però poi il titolo centrale a centropagina è invece dedicato, perché oggi incredibilmente, più o meno incredibilmente, il Parlamento sarà al lavoro, perché si deve trovare un accordo su molte cose, tra le quali i famigerati voucher, di cui forse chi ha seguito ieri, ho trovato molto interessante ieri i conti della Belva con Oscar Giannino, per fare un po' di chiarezza su questo tema così spinoso. La fotonotizia però è divisa in due. Tra l'altro il primo quotidiano che ho sfogliato è stato proprio il Corriere della Sera, e troverete poi nelle pagine dello sport, pagina 38 e 39, adesso che insomma le tipografie danno questa possibilità, c'è un titolo con la parola rosso in rosso e un titolo con la parola rosa in rosa. Pensavo fosse una cosa molto originale del Corriere, in realtà poi l'hanno fatto in molti. Perché? Perché naturalmente da una parte c'è la prima fila della Ferrari al Gran Premio di Monte Carlo di oggi, e dall'altra c'è l'arrivo, la fine del Giro d'Italia, che il cui colore appunto più famoso, più caratteristico è il rosa. La Repubblica: G7 su migranti e clima non c'è intesa, una foto molto simile a quella pubblicata da altri giornali, Corriere della Sera compreso, che è quella di Gentiloni che sembra sussurrare qualcosa all'orecchio di Trump, come se forse anche lui fosse un po' spaventato da questa idea che a volte, quando si parla, poi qualcuno legge le labbra e vengono svelati questi piccoli grandi segreti che si dicono pensando di non essere ascoltati, però comunque si è visti. Il titolo anche in questo caso però c'è un titolo sui voucher, il PD si divide sui voucher. Oh, che novità che il PD si divide, e la Repubblica sottolinea che il testo appunto sui cosiddetti voucher, che in realtà sono una forma un po' diversa da quelli che sono stati aboliti per decreto per scongiurare il referendum, ricorderete la vicenda, questo testo nuovo passa grazie a leghisti e forzisti. In prima pagina, come fanno anche altri giornali, forse non con questa enfasi, la vicenda terribile del bambino di 7 anni che è morto dopo essere entrato in coma e ricoverato in ospedale di urgenza per un'otite curata per 15 giorni con l'omeopatia anziché con gli antibiotici. Con la Repubblica, come ogni domenica da quando lo dirige Tommaso Cerno nell'agosto scorso, l'Espresso. La copertina è dedicata, come spesso accade, a un'inchiesta dell'Espresso. Questa settimana si intitola Fratello Governo, Sorella Lobby. Naturalmente il riferimento è a Francesco il santo, naturalmente, e c'è Francesco con una specie di corona sulla testa fatta di stelle, non so se potrebbero essere, sì, sono 5, quindi potrebbero essere 5 stelle, e il cagnolino ricorda chiaramente Beppe Grillo dalla capigliatura. Adesso vi leggo il titolo dell'inchiesta così capite meglio. Poteri economici, aziende di Stato, apparati. Mentre Grillo si ispira a San Francesco, Casaleggio si accredita con l'establishment. Così il Movimento 5 Stelle cambia pelle puntando al palazzo. Credo che sia un'inchiesta che non farà piacere agli esponenti del Movimento 5 Stelle. La Stampa, anche in questo caso, è un doppio titolo, da una parte, anzi potremmo dire un triplo titolo in questo caso. Il titolo principale è Voucher, il governo in bilico, Forza Italia pronta a salvarlo. Di spalla la cronaca sul G7 che si è chiuso, e poi una notizia che solo La Stampa mette in prima pagina, il caos negli aeroporti di Heathrow e Gatwick di ieri, dove il sistema dei computer della British Airways è andato completamente in tilt, bloccando tutto il traffico in entrata a Heathrow e Gatwick, che riguardava gli aerei della British Airways. Però essendo Heathrow uno dei, o il numero uno o il numero due, adesso non ricordo mai, rivaleggia in questo primato con l'aeroporto di Dubai, essendo appunto uno degli scali principali nonché hub di British Airways, è stato veramente un giorno difficilissimo per tutti, non solo per chi doveva prendere un volo o arrivare con un volo British Airways. A Heathrow, fra i passeggeri, ostaggi di un computer. Poi tra l'altro c'è stato questo, all'inizio sembrava che, rilanciato da alcuni siti inglesi, sembrava che potesse essere stato un cyber attacco. In realtà non c'è una smentita completa fino ad ora, probabilmente semplicemente il sistema della British Airways che ha avuto un problema, e quindi non è stato un cyber attacco e soprattutto non è stato un attacco terroristico. La fotonotizia è dedicata a Papa Francesco, che come avete sentito è andato all'Ilva di Genova, questa non quella di Taranto ma quella di Genova. Ha fatto un discorso che riguarda in realtà tutti i lavoratori, e La Stampa titola Il grido del Papa no a chi licenzia. Due gli articoli sul caso del bambino morto di otite dopo essere stato curato per 15 giorni con l'omeopatia. Da una parte la cronaca, morto il bimbo malato di otite, e dall'altra un interessante articolo che poi trovate a pagina 13 di Maria Corbi, che riepiloga un po' tutto quello, la situazione dell'omeopatia in Italia, quei 5 milioni che scelgono cure alternative. In realtà non solo omeopatia, che sapete è una branca particolare della medicina alternativa, tra l'altro i medici omeopati sono laureati in medicina, e questo forse rende ancora più grave il caso del medico omeopata che si spacciava per pediatra pur non avendo una specializzazione in pediatria, tra l'altro, di questo medico che appunto ha curato un bambino malato di otite con rimedi che non potevano debellare i batteri come invece possono fare gli antibiotici. Il Messaggero ha una fotonotizia ancora una volta, questa volta si allarga un po' il grand'angolo, al centro ci sono sempre Gentiloni con la mano davanti alla bocca che dice qualcosa a Trump, di fianco a loro Macron sorridente e dietro tutti gli altri grandi. G7, passi sul commercio, Trump rinvia sul clima. Il titolo principale però è un'intervista di Barbara Jerkov a Matteo Renzi, intitolata con questo virgolettato: un patto con Berlusconi e Grillo perché lo chiede il Colle, cioè lo chiede il Presidente della Repubblica, secondo quanto racconta Renzi a Barbara Jerkov. L'Avvenire ha un titolo, forse non ho mai visto un titolo così, giustamente questa volta così ampio, che occupa quasi tutta la prima pagina dell'Avvenire, tranne la colonna a sinistra dedicata all'editoria, riservata all'editoriale della Domenica, e il titolo è Il lavoro e democrazia, la Chiesa stia in strada, un virgolettato del lungo discorso che ha tenuto il Papa ieri a Genova, dove ha parlato della sua visione di che cosa devono fare gli imprenditori, che non dovrebbero mai speculare, ma avere come obiettivo quello di creare posti di lavoro, però ha anche parlato di come dovrebbero comportarsi i sacerdoti, per esempio usando parole molto dure verso chi pensa di sapere tutto, dicendo non esistono i sacerdoti Wikipedia. In prima pagina un tema che tutti gli altri giornali si sono già dimenticati, cioè la strage dei cristiani copti in Egitto. E poi trovate l'articolo a pagina 5, il Daesh rivendica la strage dei cristiani. Come potete immaginare, il Secolo XIX, che è il quotidiano di Genova, mette in prima pagina la giornata di Francesco appunto a Genova, e in piazza per la messa erano in 100.000, e dalle pagine 3, praticamente alle pagine 11 del Secolo, trovate la cronaca di questa giornata di Papa Francesco a Genova. L'Unità titola sulla vicenda del bambino di 7 anni morto perché non gli sono stati dati degli antibiotici, cura ormai sicura per l'otite, che è un'infezione appunto dovuta a un batterio. Come sapete, è entrato in coma questo bambino perché l'infezione, e quindi il pus che spesso caratterizza le infezioni, si era spostato dai canali uditivi fino al cervello, causando per l'appunto il coma. E quindi il titolo dell'Unità: se la scienza muore, un bambino di 7 anni è morto, i genitori e il medico hanno curato la sua otite senza gli antibiotici. E trovo giusto questo sottolineare i genitori e il medico, perché le prime dichiarazioni a caldo di uno dei nonni del bambino, faremo causa al medico, ma la responsabilità individuale, queste erano persone che come tutti noi hanno accesso alle informazioni, hanno deciso scientemente di continuare a seguire i consigli dell'omeopatia senza informarsi. Oggi davvero non è difficile, a meno che non si presuma che tutto quello che si dice sulla medicina sia falso, ma è una posizione assurda, e non è difficile capire, anche solo accendendo un computer, che cos'è l'otite e come si cura. La fotonotizia però è dedicata a Papa Francesco: lavoro, il Papa unisce, la sinistra si divide. Il riferimento è a quello che dicevano anche gli altri giornali sulla vicenda dei voucher. Ci fermiamo però un attimo per una pausa e anche un aggiornamento sul meteo. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Grazie a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi SMS o WhatsApp al 349-238-6666. E chiederei a un ascoltatore che peraltro non si firma, che mi scrive: più che falso quello che si dice sulla medicina, è falso le notizie che date voi giornalisti. Non so a che cosa si riferisca, di falso sulla medicina o del fatto che diamo notizie false su queste vicende. Non so come si possa dire una cosa del genere di fronte a un bambino dichiarato, la cui morte cerebrale è stata dichiarata, sono stati anche spiantati gli organi. Non credo neanche di aver escluso l'utilizzo dell'omeopatia. Inserisco una piccola nota personale, perché l'argomento è secondo me importantissimo. Io sono figlia di un medico chirurgo che peraltro non ha mai impedito alla sua famiglia, se così desideravamo, di rivolgerci a degli omeopati. L'omeopatia ha un suo ruolo. Ci sono altri casi in cui invece bisogna ammettere serenamente che delle cure, pur con dei farmaci che come tutti i farmaci avranno degli effetti collaterali, ci sono delle cure efficaci della malattia tradizionale, e a volte evitano persino la morte dei bambini. Detto questo, torniamo un attimo sulle prime pagine dei quotidiani. Il Fatto ha un titolo diverso da tutti gli altri, è sulla vicenda, sicuramente ne avete sentito parlare, del TAR del Lazio, che ha bocciato le nomine dei direttori dei musei, uno perché è straniero e altri per altre irregolarità. In realtà, per quanto riguarda proprio la nomina degli stranieri, si scopre che c'è una legge varata dal governo Amato nel 2001 e, secondo il Fatto Quotidiano, è anche di Dario Franceschini la norma antistranieri. Da qui il titolo: Dario Pasticcio, musei, Franceschini ha violato una sua legge, ora la cambia. E poi una necessarissima intervista a Roberto Saviano, che ci spiega: il PD fa leggi di destra, normale che faccia patti con B. È una foto di Saviano in una delle sue tipiche pose in cui punta la mano verso qualcosa. In ogni caso torna a attaccare Renzi, che dice ha fatto troppi errori. Libero: Trump affossa il G7, quindi comunque titolo sul G7, e poi un aggiornamento sulle mosse della giunta Appendino a Torino, dove si è riaperto uno zoo. E tra l'altro c'è poi stata anche una manifestazione del partito animalista. Mi sembrava molto strano, credo sembrasse strano a tutti, c'era chi magari aspettava questo ritorno e chi no. Dopo 2 settimane senza esercitarsi nell'attacco a Bergoglio, oggi Antonio Socci non resiste e scrive in prima pagina e poi pagina 7: le schegge impazzite ora sono a capo della Chiesa, gli errori di Vaticano e CEI, la conferenza episcopale italiana che sapete ha appena votato un nuovo presidente, che si chiama, un nuovo vertice che si chiama Gualtiero Bassetti, un cardinale, appunto le schegge impazzite ora sono a capo della Chiesa, Antonio Socci. Renato Farina invece firma un articolo che poi tratta pagina 6: minimizzata la strage dei copti per non offendere l'Islam, silenzio sui cristiani uccisi. Faccio sommessamente notare che Avvenire, che è il quotidiano della CEI, come vi ho detto prima, è l'unico quotidiano oggi che riprende la notizia della strage dei copti in Egitto e spiega e dà questo aggiornamento, per esempio, sulla rivendicazione dell'ISIS. La Verità è un titolo ancora diverso, anche in questo caso, se il Fatto Quotidiano si occupava del ministro Franceschini, qui ci si occupa del ministro Lotti. Rischia il processo, secondo La Verità, per 500.000 di euro, ritirando all'improvviso una grossa somma, spinto verso il fallimento l'azienda di un amico. E poi però a centropagina il titolo sui voucher che tornano grazie alla destra, abbiamo visto prima anche nei titoli, appunto sono passati con i voti della Lega e Forza Italia e spaccano il PD. E il Manifesto, foto di Papa Francesco, metal pop e un virgolettato che richiama poi l'articolo a pagina 4: licenziare, sfruttare e malpagare il lavoro è anticostituzionale. Un titolo anche sui voucher: scatta la trappola dei nuovi voucher. Sui giornali trovate anche, ma poi vedremo anche, questi ci saranno poi aggiornamenti, sono sicura, nei GR, il Festival di Cannes, che sapete ha premiato un'attrice italiana, Jasmine Trinca, e però il Manifesto è l'unico quotidiano che ricorda un anniversario, quello di John F. Kennedy, e poi a pagina 11 trovate un ricordo che ripercorre un po' la storia di questo presidente, che poi, come sappiamo, fu ucciso in un attentato a Dallas e sconvolse l'America quella giornata. In ogni caso, appunto, un secolo fa, il 29 maggio del 1917, nasceva in Massachusetts JFK. E tra l'altro vedremo che poi proprio di JFK, Gianfranco Ravasi ha scelto una frase per il suo buongiorno. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali. Il Sole 24 Ore, come sempre alla domenica, l'appuntamento con sport e business. Questa settimana si occupa del grande concorso ippico che c'è stato a Villa Borghese a Roma e poi invece anche della fiera del wellness che si chiama Rimini Wellness, che si apre il 1° giugno a Rimini. Il titolo: Federazione CONI alleati per rilanciare Piazza di Siena. Si chiude infatti oggi questo concorso ippico, che è uno dei più importanti concorsi ippici europei, però ha bisogno comunque di essere rilanciato, perché la concorrenza, come ormai in tutti gli sport, in tutti i settori, è agguerrita. E poi vi dicevo Rimini Wellness, fiera del fitness per 260.000. Vi ricordo ancora, pagina 16, l'incontro a tavola con Carlo Rovelli, questo fisico che insegna in Francia ma insegna anche in Italia. Ha il suo libro, 7 brevi lezioni di fisica, pubblicato nel 2014, è stato una vera sorpresa, un'autentica sorpresa della divulgazione scientifica, perché ha venduto nel mondo più di 1 milione di copie e 350.000 solo in Italia. Ora è uscito il suo nuovo libro, che si chiama L'ordine del tempo, sempre per Adelphi, mentre le 7 brevi lezioni di fisica, come racconta Rovelli a Paolo Brico, erano una sorta di storia d'amore fra me e la scienza. Questa volta l'argomento è proprio soltanto il tempo, la storia di un inseguimento, ha detto Carlo Rovelli a Paolo Brico, ed è più lo si studia, più si sciolgono i misteri, più sorgono le domande. Invece, come vi dicevamo, Carlo Osso, la settima puntata del suo viaggio in Europa, in Europa allargata, perché Odessa si trova in Ucraina, spartito di notte, creazione e libertà. Poi, tra l'altro, Odessa ha dato i natali a tanti personaggi illustri, dai genitori di Bob Dylan, che naturalmente poi sono emigrati negli Stati Uniti, a Irene Mirovsky, la grande scrittrice, e poi si trova a Odessa, la famosa scalinata di quella scena del film La corazzata la corazzata Potemkin di Eisenstein, un film del 1925 che poi è diventato un po' il simbolo di che cosa è un film impegnato, impegnativo. E forse ricorderete la scena, appunto, in cui una carrozzina scappa di mano in questa lunghissima scalinata, perché la carrozzina è sfuggita a una madre che è appena stata uccisa. È un film, appunto, del 1925, che quindi che racconta gli eventi della rivoluzione russa del 1905. Settimana prossima appuntamento con Ankara, la capitale della Turchia. Dalle pagine interne del Corriere della Sera vi segnalo un articolo di Giovanni Stringa, che si occupa degli stipendi di noi italiani. Dall'operaio al dirigente, pensate, il salto in busta paga può arrivare al 434%. Questa è la forbice tra le categorie più e meno remunerate. E poi c'è la forbice tra gli stipendi di uomini e donne a parità di mansioni. È un divario che varia, secondo le statistiche, dal 9% al 13%. Nelle pagine della salute, che vengono pubblicate ogni domenica dal Corriere della Sera, vi segnalo in particolare, visto che magari proprio la domenica si fa sport a livello sempre amatoriale, come si deve alimentare uno sportivo. Per chi si muove molto, riserve di energia dai carboidrati complessi e idratazione adeguata, con uno schema come sempre molto utile su che cosa fanno i vari cibi e che cosa bisognerebbe mangiare in allenamento, oppure se si affronta una vera e propria gara. Dalle pagine interne della Repubblica, un reportage che poi è apparso sul New York Times, con cui la Repubblica ha un accordo di cosiddetta syndication, cioè può pubblicare alcuni articoli usciti sul New York Times. Sarebbe reciproco, ma non so, davvero non so, ma magari capita che il New York Times pubblichi, traduca articoli usciti sulla Repubblica. In questo caso è dedicato a quel viaggio che ha intrapreso il fondatore di Facebook, Zuckerberg, e qui rispondo all'ascoltatore che mi chiedesse, dico summit o summit. Summit in inglese è summit, appunto, viene tra l'altro dal verbo e dal sostantivo sum, che è somma. Quindi da qui, vi dicevo, l'articolo su questo viaggio di Zuckerberg, secondo alcuni è una sorta di preparazione a un ruolo in politica. Dai social alle campagne, il viaggio alla scoperta dell'America. Il fondatore di Facebook visita le comunità agricole, si prepara a scendere in politica, ma lui ogni volta risponde di no, con giustificazioni diverse. Questa volta no, voglio capire chi usa il mio network. Noi invece adesso ci lasciamo un attimo per capire cosa succede sulle strade italiane. in primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie ancora a tutti gli ascoltatori. C'è un'ascoltatrice in particolare che mi dice che le dispiace, che anzi si indigna del fatto che io sia sempre acida nei confronti di Saviano. Acida non lo so, spero di no, critica sicuramente sì. Questa ascoltatrice dice anche che mi ricorda che la mafia ha potuto colpire proprio le persone quando sono state isolate. Il riferimento è anche implicito ma abbastanza chiaro a Giovanni Falcone. Io non voglio neanche fare il paragone tra Roberto Saviano e un magistrato come Giovanni Falcone o Paolo Borsellino. Di Saviano, ripeto, spero di non essere acida, ma mi irrita il suo atteggiamento da tuttologo e da voler dare la sua opinione su tutto. Io non credo che si possa essere, specie alla sua età, dei tuttologi. Ma torniamo alle pagine interne della Repubblica. C'è molto spazio, come vi dicevo, al Festival di Cannes, e a proposito di indignazione, ecco, questo l'ho trovato proprio una caduta di stile tremenda. C'è il solito reportage che parla di come si vestono le donne sul tappeto rosso, e in particolare queste protagoniste raccontate da Arianna Finos da Cannes. Eva è Manuel, Eva è Eva Green, che è protagonista insieme a Emmanuel Seigneur dell'ultimo film di Roman Polanski. Le Dark Lady all'attacco, il virgolettato, che bello imbruttirsi, per Roman si fa di tutto, Roman naturalmente, Roman Polanski. E poi dicevo, la cosa che mi ha proprio colpito, mi ha messo un senso di disagio, sono queste due foto piccole, una di Uma Thurman, questa è la didascalia, così alta e sottile, è perfetta anche con i pantaloni che uccidono polpaccio e caviglie. E vabbè. E poi c'è una foto di Natasha Kinski, molto piccola, non si riesce davvero a capire. Questa è la didascalia. Era la ragazza più bella del mondo, oggi è una signora invecchiata senza il Botox. Forse è bellissima proprio per quello ancora adesso, ma l'ho trovato proprio, naturalmente nessuna foto di uomo, soltanto queste piccole fotine con queste didascalie un po' sibilline. Bene, dalla Stampa invece vi segnalo una lunga chiacchierata di Andrea Malaguti, una chiacchierata a ritratto con Urbano Cairo, che sapete, oltre a essere presidente della Cairo Communication e della squadra di calcio Torino, ha anche comprato ed è presidente della RCS, il gruppo editoriale che controlla anche Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, che sta risanando. Spesso gli è stato chiesto, ma non è interessato alla politica, e qui il titolo di questo articolo è: Politica, la tentazione di Cairo, la amo, ma ora non ho tempo. Vi dicevo, la pagina dedicata all'omeopatia e alle altre cure alternative, la pagina 13 della Stampa, e lunghissimo articolo, due articoli, a pagina 5 dell'Avvenire. Da una parte, come vi dicevo, la rivendicazione del Daesh alla strage di cristiani copti, e un altro approfondimento, anzi altri due approfondimenti, dai predicatori d'odio egiziani, campagna mediatica anticristiana. A proposito invece del fatto che su Libero si sostiene che la CEI, di cui Avvenire è l'organo ufficiale, e la Chiesa Cattolica non ignorano queste stragi di cristiani copti. Naturalmente molto spazio anche alla vicenda del bambino morto per l'otite. E poi una notizia che non c'è su nessun altro giornale, quello che sta succedendo nelle Filippine, l'attacco finale, la disperazione dei civili nelle Filippine. È in corso di fatto una guerra civile, e anche in questo caso c'entrano purtroppo le religioni. Ma passiamo ai supplementi domenicali, e come vi dicevo iniziamo dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Fare, e parte con una frase proprio di uno dei più famosi discorsi di John Fitzgerald Kennedy: non chiedete cosa il vostro paese può fare per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese. Concittadini del mondo, non chiedete cosa l'America può fare per voi, ma cosa possiamo fare insieme per la libertà dell'uomo. E qui finisce la citazione, e scrive Gianfranco Ravasi: 100 anni fa come domani, il 29 maggio, nasceva a Brooklyn John Fitzgerald Kennedy. Questa locuzione che ho visto usare da Monsignor Ravasi anche altre volte, la trovo bellissima. Cioè, 100 anni fa come domani nasceva, questa idea che gli anniversari servono anche a ricordare le nascite, ma si può rinascere soprattutto nel ricordo, e vale per le persone famose, naturalmente anche per tutte le persone che abbiamo perso e che ci erano in qualche modo care. Quindi John Fitzgerald Kennedy, 35esimo presidente degli Stati Uniti. Ricordo ancora, indifferite attraverso le immagini un po' nebbiose dei televisori di allora, parti del suo discorso di insediamento, pronunciato il 20 gennaio del 1961. Un discorso dal quale abbiamo estratto un frammento capace di farci capire quanto siamo, cambiati in questi anni gli americani e gli europei, a mio avviso in peggio. Nelle parole di Kennedy, secondo lo stile della nuova frontiera, appunto era questo una delle dei modi in cui veniva definita la sua politica, New Frontier, a dominare certamente il verbo fare, il vocabolo dell'impegno operoso, ma ciò che è significativo è l'inversione dei ruoli. Prima di accampare pur giusti diritti, i cittadini devono essere coscienti dei loro doveri. La consapevolezza dell'etica sociale, se diffusa a livello popolare, alla fine esprime politici migliori. Inoltre deve essere viva la coscienza dell'universalità, per cui tutti sono necessari agli altri e non esiste il primato di una nazione sull'altra. E la meta finale verso cui procedere è una sola, la libertà e la dignità di ogni uomo e donna. La copertina vera e propria però è un articolo di Salvatore Settis, I vizi di Giotto spiegati in poesia. È stato terminato un importante recupero nella Cappella degli Scrovegni e sono state decifrate tutte le iscrizioni sotto i vizi e le virtù ritenute perdute. Quindi un bel esercizio, una buona notizia per i filologi, ma anche per tutti gli amanti dell'arte. Un lungo articolo di Goffredo Fofi su uno dei libri che ha fatto più discutere negli ultimi mesi, che è il nuovo libro di Walter City. E, I morbosi critici di Walter City, scrive Goffredo Fofi, gli attacchi a bruciare tutto, questo è il titolo del nuovo libro di Walter City, sono venuti soprattutto dal mondo cattolico, alla cui vitalità culturale invece il romanzo si rivolge. Il pensiero di sinistra e laico sono morti, questa è l'opinione di Goffredo Fofi. E un ricordo, se vogliamo, con la pubblicazione di un inedito di Sebastiano Vassalli, il grandissimo scrittore scomparso nel 2015, riprende, sembra quasi scritto oggi, un tema che è quello di alcune estremismi che si vedono oggi e il titolo appunto scelto per questo articolo di Sebastiano Vassalli, l'esilarante crociata contro il politicamente corretto, ecologi in testa, seguito dai fanatici dei cibi genuini e da coloro che si ritirano in alta montagna. Poi c'è qualcuno che sa leggere, le pagine dedicate ai lettori più piccoli. Molto interessante questo articolo di Beatrice Masini che si intitola Austin a braccetto con una punk. Sono stati ripubblicati alcuni classici in una versione dichiaratamente per bambini. Il sommario dell'articolo di Beatrice Masini è: i classici non sono per niente barbosi. Arrivano Dracula, Cime Tempestose, Ragione e Sentimento e Madame Bovary, con nuove traduzioni e le prefazioni di scrittori che spiegano quanto sono attuali. Il supplemento domenicale del Corriere della Sera affida la copertina come sempre a un artista, oggi è Antonella Zazzera, ma stupende le prime due pagine che recensiscono due libri usciti di recente sulle api, la recensione di Telmo Pievani che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono bene, Com'è umana la società degli insetti. Randolph Menzel, che viene definito il Conrad Lorenz delle api, ha scritto una biografia scientifica che smonta molte acquisizioni, a cominciare dall'idea di cieca sottomissione che si consumerebbe nell'alveare e che ha dato origine a molte metafore distopiche. Le api hanno visto e olfatto sviluppati, un cervello minuscolo, certo, ma dinamico, che forse sogna un industrioso linguaggio del corpo. Affascinanti questi due libri, uno è appunto di Randolph Menzel, L'intelligenza delle api di Raffaello Cortina, e l'altro è di Maya Lunde, La storia delle api, pubblicato da Marsilio. La copertina di Robinson, invece, il supplemento domenicale della Repubblica, si intitola Cosa succede fuori città? Dalla Brexit ai voti per Trump e Le Pen, radiografia di un mondo diviso tra chi vive nei grandi centri urbani e chi si sente escluso. E sapete che il tema delle periferie è al centro anche di molte discussioni in Italia. C'è anche Renzo Piano, l'architetto italiano forse più famoso, che ha, oltre ad essere senatore a vita, ha un ufficio proprio al Parlamento dove si occupa anche di questo, di un piano per le periferie in tante delle nostre città. L'ultimissima segnalazione che riesco a farvi è la copertina di Alias, il supplemento domenicale del Manifesto, tutto dedicato a Richard Ford, che ha appena pubblicato un nuovo libro che si intitola Tra loro e che racconta soprattutto delle vite dei suoi genitori. In realtà ho spazio anche per l'ultimissima copertina, quella di Macro, che è dedicata a Pietro Germi, il grande regista, che scrive Carlo Nordio su Macro: l'artista fu studiatore dei difetti capitali. Era l'ultimissima segnalazione per oggi, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, ci risentiamo domenica prossima per un'altra rassegna dei quotidiani italiani.